It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il livello di panico è sempre altissimo, K e Drago hanno l'aria stanca, soprattutto Drago. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Drago, su, tirati un po' su, dai. Come fa, hai l'aria, cioè, troppo stanca. Ho l'aria stanca. No? Sì. Non è che ho l'aria stanca, hai è un che brutto sono aspetto, stanco. No, hai un brutto aspetto, è diverso dal solito. Sei stanco, ma hai anche un brutto aspetto. Cioè, ma in che senso? Ho le occhiaie brutte, sì, viola. Sì, le occhiaie, hai le zampe di gallina. Ah, spiritoso, le zampe di gallina. Dai, Drago, mettiti una bella crema. Ci sono le creme per chi invecchia. Ho capito. Le creme, fai qualcosa, no, Drago. Sei orrendo. A parte questi tuoi scrupoli estetici, io non comincerò certo a truccarmi alla mia età. Ma perché? Perché ormai i segni del tempo non posso più nasconderli. Anzi, devo essere onesto con me stesso e ammettere che è vero. Ho le zampe di gallina. Tutte belle unghiute. A proposito di unghiute, e il colonnello unghiute? Che ne so, il ma che ne unghiute, so. Colonnello unghiute prima o poi viene qui e spacca tutto. Anzi, viene qui, chiede del pollo in sbattimento, lo trova, se lo lavora ben bene e poi solo a quel punto spacca tutto. Eh sì, deve solo provarci. Appena arrivo qui, anche se sono un po' tonato, gli tiro due beccate su quel naso schiacciato da scimmione. No, vabbè, adesso, pollo in sbattimento. Qui le regole del politicamente corretto ti vietano di paragonare un africano a uno scimmione. Quindi ritira quell'insulto razzista al povero colonnello unghiuto. No, ritira. No, io ne ritiro mai niente. Al massimo ritiro, nel senso che ne tiro un'altra di beccata. A parte il razzismo, Pollo, il discorso è un altro. Tu hai chiamato gli squadroni della morte del colonnello unghiute per rovesciare il governo dentro la fabbrica di polli. Vedi, puntate della scorsa settimana. Ma adesso ti sei fatto corrompere dall'amministratore delegato e non vuoi più fare la rivoluzione in fabbrica. Ecco come sta. Vergogna. La rivoluzione è un concetto sorpassato. Sì, sì, ma intanto i cannibali guidati da unghiute arriveranno e non potrai più fermarli. Prova a far ragionare un gruppo di mercenari. Belgi. E cannibali. Mai sentito dire di belgi cannibali? Però sì. Tedeschi sì, però belgi no. Guten Tag. Comunque è così, mercenari, belgi e cannibali. Belgi o cannibali, o belgi cannibali, perché lei, io non voglio saperne niente. Intanto sono tuonato e che me ne frega del resto. Ma cos'è sta storia che sei tuonato? Cosa vuol dire che sei tuonato? Sono un po' tuonato, no? Un po' attutito. Attutito? Sì, perché ormai sono in un'ottica un po' buddista, no? I problemi li affronterò man mano che arriveranno, no? Adesso non me ne voglio preoccupare. Sono cose che ancora non esistono. Il giorno che queste cose esisteranno, allora farò in modo di essere pronto per affrontarle. Adeguatamente, ovviamente. Va bene così, Pollastri. Adesso però lasciatemi cantare una canzone delle Zeppelin, va? No, ma aspetta, no, per piacere no, no, sì, non è no? Il caso. No, c'è già Drago che è orrendo, adesso ti metti tu a cantare, dai, no, per favore. Una canzone. Ma una canzone. Ma di chi? Dei Led Zeppelin. E che canzone è? È Moby Dick. Moby Dick. Non la conosco, ma com'è che fa? Ma Moby Dick non è del banco del mutuo soccorso? Infatti. Anche, prima anche delle Zeppelin. Ah, prima delle Zeppelin. Sono due diverse le canzoni. Ho capito. No, no, questa qua è un'altra, È Moby Dick delle Zeppelin, che fa così. Il pollo in sbattimento esegue a cappella canzoni degli anni 70 filologicamente perfette, con spiccata preferenza per i riff di chitarra. Per avere il disco delle cover del pollo in sbattimento, con composizioni di King Crimson, Gentle Giant, Emerson, Lake & Palmer, Led Zeppelin e di tutto il meglio degli anni 70, rivolgetevi con fiducia a barlumen.com. Vi metteremo in contatto direttamente col pollo in sbattimento. Concorderete con lui il prezzo del disco, che sarà tutto in nero e al di fuori di qualsiasi regime previdenziale obbligatorio. fabbrica dei polli. Poi Pollastri, avete voglia di fare un po' di grana? Ma sì, un po' di grana. Ma chi se ne frega dei soldi qui dentro, Pollo? Cosa ci sarà mai da comprare in una fabbrica di polli? C'è solo cacca di gallina, ma è gratis, quindi sì, come concime però va benissimo. Se, non so, forse si potrebbe rivendere. Sì, ho già capito. Devo fare tutto da solo come al solito. Ma far che? Io devo fare del bene qui in giro, no? E avrei bisogno di un po' di manovalanza. Ma sono contento, finalmente hai lasciato il terrorismo, ti sei messo a fare volontariato. Posso dire che credo anch'io che sia un'attività da incoraggiare e che aiuta la mente sofferente come la tua a ritrovare i valori e i principi solidi su cui costruire la propria forza. Bravo Paul in sbattimento. Grazie. Ma senti, ma che tipo di attività è? Spaccio di droga. Ma come spaccio di droga? Spaccio di paroxetina, no? Ma ti sembra volontariato questo? Ma guardate, io che non ho mai parlato di volontariato. Ma come? Io ho detto che devo fare del bene. Appunto. È diverso. Sì, è diverso, ma nel senso che è un ossimoro. Non puoi fare del bene spacciando paroxetina. Beh, dipende. Ma da cosa? Dipende, no? Cioè, se la paroxetina è il bene massimo, allora se la spaccio al mercato nero faccio del bene, no? Ho capito. Perché in fondo, alla fine, diciamoci la verità, spacciare non è un crimine. Ma come no? Ma cosa stai dicendo? Pollo. Ma dai, smettetela anche voi due, no? Con questa ipocrisia. Che avete delle facce lì, quegli occhi. Ma piatto, ma cosa ridi? Ma non vedi niente da lì? Ma dai che lo fanno tutti, no? Non facciamo ridere. La paroxetina, la marijuana, la polvere d'angelo, ma che differenza c'è? Adesso poi, anche per la legge è tutto uguale, quindi tanto vale rivolgersi al mercato nero, no? E smazzare. Al mercato nero, complimenti. Black market. Come Black Market, The Weather Report, la conoscete, no? No, signora. Per favore, Paolo, dai. Ma scusa, ma dov'è che vai a spacciarla? Vabbè, ci sono due o tre posti qui in fabbrica dove c'è il giretto losco, no? Il giretto losco. Vabbè, tipo, c'è il corridoio degli ascensori. E lì è tutto bello buio e non c'è mai nessuno. E poi? Poi c'è il magazzino delle carcasse, dove buttano i pezzi di pollo non commestibili, tipo la testa, le zampe, i becchi. Ma che orrore, Pollo! No, lo dici a me. A chi deve dire? Guarda che io quando vado lì tengo le zampe crociate. Lì è un posto che porta una sfiga della malora, tutti quei cadaveri dei miei fratelli portati in spalle dalla corrente. Ma sì, ma cos'è? De Andrea adesso? Sì, la guerra di Piero. Vuoi sentire la versione della PFM? No, grazie. Senti, poi altri posti loschi della fabbrica, per carità. Vabbè, poi c'è un altro che è il più losco di tutti, che è il Bronx. Il bario, adesso non so nemmeno come definirlo, perché qui lo chiamiamo la cloaca maxima. Vi piace come nome? Cloaca maxima. Invitante. Invitante, mica tanto. L'ultima volta che sono stato lì è scoppiata una rissa tra un gallo nero da messa satanica e un gallo da combattimento siciliano. Tutto per questioni di donne, cioè di galline. Il gallo nero ne è uscito a pezzi. Lì bisogna stare attenti, Bisogna stare attenti ai galli siciliani. Comunque, Drago, facciamo una cosa: andiamo col pollo nella cloaca maxima. Mi pare giusto. Perché sai perché? Perché forse lì troveremo il modo di uscire di qui. Sì, mi sfugge la logica, però sei sicuro di voler andare in un posto che si chiama cloaca maxima? Mal che vada, finiremo in una retata. Ci passiamo la notte al fresco. Non abbiate paura, no? Ci sono io, no? Io lui. Becco ce l'ho. E vuoi dirmi che quelli della cloaca maxima sono senza becco? No, ce l'hanno anche loro il becco. Però il becco ce l'ho anch'io. E che becco, lì se c'è da beccare mica mi tiro indietro, lì bisogna stare attenti, ci sono i becchi, quelli coi becchi duri, e i becchi avvelenati. I becchi avvelenati? I becchi a serramanico? No, sono becchi avvelenati, li intingono in una mistura che fanno loro. Ho capito. Con dei diserbanti e roba così, e si beccano, poi ti fa infezione. Quindi zappe incrociate, becco dritto e attenzione, occhio da una parte e un occhio dall'altra e via, piano piano. Con le zampe incrociate, un occhio da una parte, un occhio dall'altra, credo che andremo lontano. Che cosa succederà adesso? K e Drago seguiranno il pollo in sbattimento in questa nuova avventura al di fuori della legge. Lo saprete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo tuonatissimo allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce, quasi mai. Good night, ladies and gentlemen. Good night. Barnumen.